canton che messano sen guinea. Chi lo parì? Una lo socia di un viejo sopa che son. Llevamo le colazion, llegamo allá, llegamo allá. Que se cosa mi banda, que se cosa mi banda. Thank you.